desolata. Durante la stagione degli amori, ogni gorilla ha la sua amata, ma il sottoscritto resta fuori. Micaone, Migappò, splendido animale, la maglietta mi conviene, che non mi potrei pavoneggiare. Il gorilla seduto a bomba, per diletto ma per gelosia. Il gorilla seduto a bomba, per diletto ma per follia. I cammini, i cani, i poni, i gatti, strumento per aversi tanti fleur. Il gorilla seduto a bomba, per diletto ma per gelosia. Il gorilla seduto a bomba, per diletto ma per gelosia. Di Monica Fischer, lento per aversi tanti fleur. Chiedo aiuto al capibara, creatura, puoi prestarmi la lupara, che voglio metter lor paura. Mi risponde scellerato, il tuo spiedimento è tutto, soprattutto se apprezzato nella foggia del tuo. Il gorilla seduto a bomba, per diletto ma per gelosia. Il gorilla seduto a bomba, per diletto ma per gelosia. I domini, i cani, i poni, i gatti, yeah.